auguri di un felice Natale e di un buon anno nuovo da parte di Massimiliano Allegri. Tanti auguri, buon Natale a tutti i vostri giallorossi. Buon Natale, buon anno, spero che le cose vadano sempre meglio per voi e per le vostre famiglie. Con il cuore, buone feste. Faccio auguri a tutti i tifosi, a tutte quelle persone che speriamo che è un anno fantastico per tutti, forza Udinese. Tutti convocati. Siamo solo al 19 dicembre e forse è già finita. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi. È già finita, perché io non so cosa fate voi da qui a maggio, ma il rischio è che ci sia da spegnere la luce su questo campionato. È giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte, deserte silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va. Buon pomeriggio Vittorio Reggia, direttore di Tutto Sport. Buon pomeriggio direttore. Buon pomeriggio. Avete titolato addirittura campioni a tutta pagina. Campione d'inverno. Campione d'inverno. Beh, è una notizia. Campione d'inverno, mi pare che la notizia sia qui, nel senso che con due partite d'anticipo questa Juventus è riuscita, anche io credo con l'aiuto delle avversarie, è riuscito a laurearsi campione d'inverno, che è un titolo così, che non vale nulla, non conta nulla, però dà un senso, mi pare, un po' a questo inizio di stagione, non tanto perché la Juventus si è laureata campione d'inverno, quanto per la portata, insomma, del risultato. Mi pare che quel più 7 sull'Inter, più 8 su Lazio e Napoli dia il senso un po' delle distanze che ci sono in questo momento tra il campione d'Italia e il resto della truppa. Sì, mi hanno detto che questa mattina all'ora di colazione qualche tifoso della Juventus ha messo le mani sotto il tavolo leggendo la prima di Tutto Sport, perché c'è scritto campioni molto in grande, poi d'inverno, diciamo, si sa, si intuisce, però beh, qualcuno ha fatto qualche scongiuro. Ma gli scongiuri ci stanno, io non faccio il tifoso, faccio il giornalista, per cui ovviamente abbiamo enfatizzato, essendo un giornale di Torino, questo fatto, che è comunque un fatto numerico, statistico, la Juve è campione d'inverno, e io credo che soltanto la Juventus, l'ho anche scritto, a questo punto può perdere lo scudetto. Mi pare che le statistiche dicano che quando si è chiuso un girone d'andata con un vantaggio così netto, non dimentichiamo che mancano ancora due giornate di campionato. Sì, non dimentichiamo che si viaggia a ritmi di record. Ecco, insomma, intanto io faccio ammenda, direttore, mi segnalano che ho detto che oggi è solo il 190 dicembre, ovviamente è il 19 dicembre, meglio, in realtà è il 17 dicembre. Parlando di Juve, aggiungere uno zero ci sta. Sì, esatto, stiamo usando delle iperboli, perché il rischio che si debbano spegnere luci, insegne e ci si dia appuntamento a settembre dell'anno prossimo è un rischio concreto, dipende dalla superiorità della Juventus, probabilmente dipende anche dall'incapacità delle altre di trovare un minimo di continuità. Io credo che la Juventus stia tenendo un ritmo forsennato, pazzesco, ha fatto 33 punti su 33 contro le squadre dall'ottavo posto in giù, insomma contro le piccole ha sempre vinto, ha avuto due passaggi a vuoto, cosa che l'anno scorso non aveva avuto, quindi due sconfitte, però ha vinto molto di più. Io credo che, è chiaro, ci sia la bravura della Juventus fuori discussione e ci sia anche un po' la complicità involontaria degli avversari che un pochino giocano ai leadersi, come è successo ieri sera col Napoli, come è successo tra Lazio e Inter sabato sera. Insomma, c'è sempre una componente altrui che va a incidere sui successi di una squadra. Mi pare che però le distanze che si erano percepite all'inizio della stagione tra la Juventus e le altre si siano confermate, insomma i pronostici si siano mantenuti. Poi è chiaro, manca tutto un girone da giocare, le sorprese nel calcio ci sono e ci stanno, adesso mi sembra veramente di essere strabanale. Credo che però con questi presupposti solo la Juventus può perdere il suo scudetto. Detto questo, la Champions League, se la Juventus dovesse andare avanti, tra l'altro giovedì c'è il sorteggio, sicuramente potrebbe incidere, perché il carico psicologico di fatiche nervose, insomma di fatiche proprio allo stato puro, può in qualche modo frenare la corsa di questa squadra. Però mi pare si è già visto qualcosa anche a novembre in mezzo a quelle due partite assolutamente da vincere con il Chelsea e poi in Ucraina, lì effettivamente al di là delle prestazioni la Juventus ha lasciato qualcosa. È uno schema che potrebbe ripetersi soprattutto tra marzo ed aprile, se la Juventus dovesse superare lo scoglio del primo turno di eliminazione diretta. Però è anche vero che se alla fine di questo periodo la classifica è quella che giustamente hai citato e che ricordiamo, e quindi Juventus 41 punti, Inter 34, Lazio 33, Napoli 33, e poi vediamo ancora per quante ore, perché restiamo ancora in attesa della sentenza sulla vicenda calcio scommesse, sulla vicenda Gianello, che almeno in primo grado dovrebbe togliere al Napoli uno o due punti. Beh, se la classifica anche dopo, scontato l'effetto Champions del mese di novembre, è questa, io credo che gli altri si possano mettere l'anima in pace, anche pensando a cosa potrebbe accadere in primavera. Non posso che sottoscrivere il tuo ragionamento, detto che, lo ripeto, nel calcio non c'è niente di scontato. Nel calcio non c'è nulla di scontato. Però oggettivamente mi pare che un vantaggio così, e soprattutto un vantaggio meritato, cioè motivato, non lasci presupporre una lotta serrata fino all'ultima giornata. Poi veramente la Juventus può anche suicidarsi, schiantarsi contro un muro, allora andiamo a riparlarne, però mi pare che in questo momento ci sia una differenza di valori abbastanza netti tra la Juventus e le altre, certificata dalla classifica. Sì, a me ha personalmente molto deluso il Napoli ieri sera, perché comunque ritengo che il Napoli sia la squadra costruita per provare a fare gara con la Juventus, e poi si perde in notti come quelle di ieri. Era già successo in casa contro il Torino, due punti assolutamente buttati via. Ieri sera il Bologna ha fatto una grandissima partita, e lo dico a Maria Rosa da Bologna, che ha scritto al 349-238-6666, domani magari proveremo anche a celebrarla con Pioli, però c'è da dire che è una squadra che vuole vincere lo scudetto, non può consegnarsi così a una serata del genere, e sto parlando del Napoli. Il Napoli ha avuto degli alti e bassi in questa stagione, altre volte era riuscito in qualche modo a ribaltare un risultato sfavorevole con un recupero straordinario nella ripresa negli ultimi minuti, quasi sempre contrassegnato dalle reti di Hamsik e soprattutto Cavani. Ieri sera non ce l'ha fatta, mi pare che al Bologna tra l'altro sia stato annullato un gol anche valido, sì, sull'1-0. Un risultato di 1-0. È stata una giornata di lavoro sbagliato probabilmente per il Napoli, però è chiaro che una grande squadra che sta per rincorrere la capolista non può permettersi dei passi falsi così. Del resto io credo che al Napoli manchi ancora qualcosa, se noi andiamo un attimo a vedere com'è stato il cammino del Napoli in questa stagione, vediamo che veramente è Cavani dipendente e in parte Hamsik dipendente. Togliendo questi due giocatori, il Napoli diventa una squadra più terra-terra, e probabilmente qui deve intervenire il presidente De Laurentiis con un mercato di riparazione di gennaio di un certo tipo. Sì, se ancora mantiene la convinzione di poter fare una seconda parte di stagione per competere per lo scudetto. Ma io credo che sia dovere del Napoli continuare a credere nello scudetto, e credo che De Laurentiis debba fare uno sforzo economico per completare questo organico. Napoli non ha bisogno di tanti giocatori, ha bisogno di un paio di ritocchi per dare più solidità a questa squadra e evitare che questa squadra debba dipendere sempre e comunque dai gol di Cavani e di Hamsik. Quanto è dura essere l'anti-Juventus? O tentare di essere l'anti-Juventus? Cose slogan che fate voi, da quest'estate tutto, no, questa frase che non la posso più nemmeno sentire. Juventus sta facendo qualcosa di straordinario, noi dobbiamo crescere, l'abbiamo visto anche oggi, lo dico da quest'estate. Comunque facciamo, oggi inizia il campionato, siamo tutti alla pari, le altre squadre, e vedremo come andrà a finire la fine. E questo era il Mazzari delusissimo di ieri. Direttore Oreggia, che poi ci lascia, alcuni sms arrivati. Con Conte in panchina non avremmo perso nemmeno con le milanesi. Ferdinando, è vero o è leggenda? Non esiste la controprova. Certo che la presenza in panchina di Conte, senza nulla togliere a Carrera e Alessio, dà un'altra consistenza alla Juventus. Poi guardate che la fortuna può anche girare, se notaste gli episodi lo mettereste in conto anche voi. Questo è Diego che ci scrive da Lavagna, poi c'è chi ci accusa e accusa anche tutto sport di provare a portare sfortuna alla Juventus, perché poi quando perderà una partita tutti sarete pronti a dire che ogni cosa è riaperta. C'è chi chiede invece, e mi interessa, ma siete sicuri che l'anti-Juventus non possa essere il Milan? È lontano, però è vero che ha una continuità in questo momento. Sì, ha ritrovato una continuità, ha ritrovato alcuni giocatori, però mi sembra che oggettivamente sia molto lontano. Cioè, se abbiamo dei dubbi su Napoli, Inter e Lazio, che penso che oggettivamente sia lecito nutrirne qualcuno di più sul Milan, che avendo perso tanti punti all'inizio della stagione, adesso per quanto bene possa fare è attardato, insomma... Non ha solo la Juve davanti, ha tante altre squadre davanti e credo che diventi tutto più complicato. Poi per la legge dei grandi numeri, come è successo alla Juventus, prima o poi ci si ferma. Sì, poi c'è senza chi... voler portare sfortuna, perché poi ci accusano di portare sfortuna. C'è chi anche ricorda che l'anno scorso di questi tempi il campione d'inverno era il Milan e poi tutti sanno com'è finita Luigi da Treviso. Per chiudere, Juve campione, ma non dimentichiamo gli arbitri. Anche questo va detto, ne ho letto uno per fare sintesi di una serie di messaggi che sono arrivati. Io mi sbilancio e dico che per una volta su questo primato della Juventus l'ombra degli arbitri non c'è, anche se gli errori ci sono stati, anche se la Juventus ne ha anche avuti a favore, però complessivamente mi sembra che questa classifica sia la fotografia esatta delle forze di questo campionato. Io sposo completamente la tua tesi, io penso che non ci sia errore di arbitro, che c'è stata a favore contro della Juventus, come c'è stata a favore contro del Napoli, dell'Inter, della stessa Lazio. Insomma, nessun errore di un arbitro può inficiare il primato della Juve, mi pare, lo ribadisco, che sia una supremazia così netta, almeno fino adesso, che veramente l'errore dell'arbitro non possa incidere assolutamente. Arriva Drogba? Io credo che la Juve ci stia lavorando molto e bene, però è una trattativa complicata. È una trattativa complicata. Difficile, ma arriva per vincere la Champions, perché credo che per il campionato basti chi c'è. C'è anche chi ci chiede di parlare di più di Giovinco, che penso nelle ultime settimane abbia guadagnato qualche punto dopo un inizio di stagione difficile. Ma guarda, io credo che per il campionato basta chi c'è, per fare un salto in alto in Europa credo che ci sia bisogno di Drogba o di chi per Drogba. Grazie Vittorio Reggia. Grazie a voi. Grazie Vittorio Reggia, direttore di Tutto Sport. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi, oppure Twitter @ tutti convocati. Antonio da Napoli, buon pomeriggio. Sì, salve, buon pomeriggio. Prego. Io volevo sottolineare la sagacia tattica di Stramaccioni, che insomma in queste ultime due partite si è vista, anche se poi sabato l'Inter ha perso, insomma, una partita che non meritava assolutamente di perdere, però si è vista secondo me che questo allenatore è veramente una persona molto intelligente, ne sa moltissimo di calcio. Cioè, io trovo un filo di ironia, Antonio, però no. Mi sembra che Stramaccioni non stia facendo male, al di là che forse a Roma poi poteva giocarsela di più, e in tanti gliel'hanno detto, al di là degli episodi, dei pali, degli errori arbitrali, certamente l'Inter poteva giocare una partita diversa, però anche quando gioca da provinciale a me sembra che Stramaccioni forse stia interpretando in maniera corretta quella che è la qualità del materiale a disposizione, o no? Non era ironico. No, assolutamente, lo penso veramente. Poi volevo dire che il campionato non è finito, perché ricordo rimonte della Roma, della Juventus sul Milan, della Lazio sul Milan, Milan sulla Lazio, insomma ci sono state molte rimonte, quindi penso che anche quest'anno, magari arbitri permettendo, l'Inter possa rimontare qualche punto. Sì, io non credo che però l'Inter possa fare corsa con questa Juventus, credo rispetto al passato che la differenza non è tanto nei punti di vantaggio che ha la Juventus, che in passato hanno avuto anche altri, la differenza io penso sia che dietro la Juventus si fa fatica a trovare un faro, qualcuno che sappia staccarsi dagli altri. Max da Lucca dice: c'è anche la Fiorentina, dovete saper leggere, siete faziosi. La Fiorentina sta facendo un campionato straordinario, Max, però credere che possa fare campionato per vincere lo scudetto, secondo me va al di là anche delle aspettative e dei progetti della famiglia Della Valle e di Montella. Giorgio da Udine, buon pomeriggio. Buongiorno, senta, prego. Volevo parlare più che altro con il suo collega, che non mi ha richiamato giovedì o venerdì, credo, non perché non ci fosse tempo. Mi ha stupito tanto la sua affermazione, parlando di toti arbitrali e lamentazioni, quando si parlava non so di chi, dicendo che non era comunque arrivato a livelli di lamentazione come quelli dell'Inter nel periodo pre-Calciopoli. Sono rimasto molto stupito di questo, non so cosa si riferisce, se forse io non mi ricordo di aver visto silenzi stampa, ritiri di squadre, mancanza, le premiazioni o roba del genere. Ripeto, fa... Cioè, quindi secondo lei in questo momento c'è... Giorgio, mi perdoni perché io sinceramente non ho esattamente capito il contenuto del suo intervento. Cioè, lei ritiene che in questo momento ci sia un livello di polemica sugli errori arbitrali troppo alto o troppo basso? Non ho capito, mi perdoni. Credo che lui facesse ironia, nel senso che comunque le lamentazioni da parte di non so chi, adesso non ricordo. Sì, immagino del Napoli, visto che mi ha citato la finale senza premiazione, non erano arrivate a livelli. Va bene, io... No, non era quello l'episodio, adesso io sto parlando di livelli che comunque l'Inter non ha raggiunto, volevo dire, è paragonabile a quello, quindi non so a cosa si riferisce. Va bene, glielo chiederemo. Sentire cose del genere, ecco, tutto qua. Grazie. Grazie Giorgio. Giuseppe da Bari, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Prego. Io volevo intervenire qualche giorno fa quando parlate di Conte, probabilmente va bene anche oggi. Da tifoso della Juve, prima ancora del Bari, penso che il lavoro di Antonio Conte sia, diciamo, a livello dei migliori allenatori mondiali, e soprattutto a livello di costanza mentale di tutti i giocatori. Io quello che ho visto fare ad Antonio Conte a Bari, con giocatori che sono alcuni dei quali sono spariti dalla circolazione, come Barreto, Kutuzov, diciamo non ha eguali. Vedo che la stessa cosa la sta facendo la Juve, ovviamente con giocatori di un livello molto più alto e con una diciamo una costanza che non hanno avuto nemmeno i suoi secondi, diciamo così. Ahimè. Sì, certamente l'impatto di Conte è un impatto importante, si è visto nella prima mezz'ora della gara di ieri contro l'Atalanta. Grazie Giuseppe. Intanto, ultima ora, la Sampdoria ha esonerato Ciro Ferrara, che dunque ha perso il posto dopo la sconfitta di ieri 3-1 a Catania. Il favorito per la panchina è Delio Rossi. Questa pre-natalizia è una domenica che è costata cara a due allenatori, perché oltre a Ferrara, altro esonerato è Serse Cosmi, che ha perso a Firenze il derby toscano con la Fiorentina, lo ha perso male e dunque verrà sostituito. In queste ore si attende la firma di Iachini. Adriano ha scritto al 349-238-6666 correggendoci: guardi che l'anno scorso il campione d'inverno è stata la Juventus e non il Milan. Ha ragione, abbiamo controllato, campione d'inverno la Juventus. Poi il Milan è andato in fuga, ma ad aprile si è spento. Lorenzo da Firenze, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Prego. A voi, grazie per questa opportunità. Volevo dire un paio di cose. Sì. Uno, mi meraviglio un po' che parlate, diciamo, di squadre seconde, parlate di Lazio e non parlate di Fiorentina, che mi sembra stia facendo un grandissimo campionato. E poi, vabbè, noi fiorentini un po' con la Juve ce l'abbiamo, ma bisogna anche dire che gli errori arbitrali, secondo me, che sono stati, diciamo, successi a vantaggio della Juventus, in un certo senso hanno molto avvantaggiato, secondo il mio parere, quello che è stato. E anche la giustizia sportiva, bisogna dire, nei confronti di Conte è stata particolarmente buona, perché a parte che è stata ridotta notevolmente la pena, e mi sembra che sia stata data anche la possibilità di allenare anche quando era squalificato, cosa che... Sì, ma non solo a Conte, non è stata scritta su misura per Conte quella norma. Quella norma è così, può essere una norma da cambiare, da cancellare, da correggere, da modificare, però così è ed è per tutti, anche per gli allenatori che prendono una o due domeniche di squalifica e durante la settimana si presentano regolarmente al centro di allenamento per condurre la squadra. Io l'ho detto prima, Non credo che quest'anno fino a qui l'incidenza degli errori arbitrali stia scrivendo una classifica molto diversa da quella reale. Il problema semmai è che gli errori restano tanti e che gli errori stanno condizionando soprattutto le partite tra le big, quelle arbitrate dai nostri arbitri internazionali, e io credo che da questo punto di vista Nicchi e Braschi debbano fare una profonda riflessione, perché sono tanti gli arbitri internazionali che si sono bruciati in questo girone d'andata. Però sulla superiorità della Juventus io credo ci siano pochi dubbi. Grazie Lorenzo. Intanto a Genova sarebbe a rischio anche la posizione del direttore sportivo sensibile, e dunque ci sarebbe in atto una vera e propria rivoluzione per i risultati deludenti che stanno arrivando in questa prima fase della stagione. A proposito di arbitri, sentiamo il direttore generale della Roma, Baldini, ieri dopo la sconfitta a Verona contro il Chievo. Ma senta, se non siete riusciti a chiarirle voi dopo magari una decina di volte che l'avete guardate, figuratevi me che è la prima volta che le vedo e che dalla tribuna non ho assolutamente visto niente, ecco. Perché la nebbia poi era piuttosto incombente a quel momento. Però io credo che qui il motivo per cui Zeman ha voluto parlare era quello di non fare nessuna polemica. Credo che siano stati una serie di episodi che non soltanto il calcio di rigore presunto, perché anche quello non ha avuto. Quello su Totti, di Dainelli su Totti. Ecco, lo stiamo vedendo. Un altro adesso su Balzaretti, lo vediamo. Che sembrava ancora più netto, così almeno è sembrata, visto che ero dalla parte. Ecco qui le immagini. Così con più vicina. E quindi per una volta semplicemente scelto di non scendere in polemica e evitato di parlare, ma era uno stato d'animo che era via via montato durante la partita per diverse decisioni che a parere loro non erano corrette. +800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi, oppure chiocciola tutti convocati per scriverci su Twitter con Conte in panca, la Juve agli occhi della tigre, poi tutto può succedere, Lorenzo, oppure quanti rosiconi anti-Juventus che ci sono, Marcellino sempre su Twitter. Enrico da Siena, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Prego. A lei. Allora, intanto un complimento che le volevo fare. Lei mi sembra molto meno spiritoso e molto più professionale del suo collega, di quello non mi ricordo nemmeno. E invece pensi che io impazzisco per la conduzione di Carlo Genta, che è spiritoso e anche professionale, però andiamo oltre, non è qui e quindi è inutile aprire una discussione. Una considerazione e una domanda. La considerazione è che sono d'accordissimo con lei sul fatto che quest'anno gli errori arbitrali non condizionano la classifica, perché la Juventus, purtroppo, io non sono juventino ma cerco di essere il più obiettivo possibile, è la più forte, ma la più forte di gran lunga, non di una spanna, di gran lunga. Però la domanda è, secondo lei, e gradirei che mi rispondesse, l'anno passato, senza gli errori di Muntari, il gol buono, e gli errori a Catania, gol buono di Robinho, sì, che poi è tutto da dimostrare che fosse errore buono. No, ma certamente l'anno scorso, Enrico, certamente il gol di Muntari ha condizionato e forse ha cambiato la storia del campionato, però stiamo parlando dell'anno scorso. Io avevo espresso un giudizio su quello che è questo girone d'andata, dove gli errori ci sono stati, e con questo rispondo anche a Roberto che al 349 238 6666 scrive addirittura: ma la violenza subita dal Catania contro la Juventus non la ricorda più nessuno. La ricordiamo, ne abbiamo parlato anche con il direttore di Tutto Sport, solo che, ed è il mio parere, dico, non è stata condizionante sulla classifica. Questa è la storia di quest'anno. Il gol di Muntari, se permette, 25 febbraio del 2012, appartiene a un altro campionato e a un altro scudetto. Ma è bene avere memoria storica, Sì, sì, non c'è dubbio, ma non fa classifica in questo momento, non fa classifica. Grazie comunque, Enrico. Io penso che una vera anti-Juventus non ci sia, penso semplicemente che la Juventus abbia una rosa molto più ampia e forte rispetto a tutte le altre, e io sottoscrivo. E poi ancora, a proposito degli errori degli arbitri, Valerio dice, parlate di errori arbitrali quando ho visto 10 volte la moviola, l'episodio di Verona non si capisce e non si capisce se l'arbitro ha sbagliato o no. Ha ragione Valerio, noi ne parliamo perché ne parlano i dirigenti, avete sentito Baldini, poi magari sentiamo anche Moratti sulla sfortuna degli Inter con gli arbitri, però ieri in diretta con Graziano Cesari abbiamo anche detto, ad esempio, che sul fuorigioco l'assistente ci aveva preso e ci aveva preso in una condizione di visibilità assurda. Luca da Treviso, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Prego. Ascolti, vorrei mandare innanzitutto un messaggio, io sono tifoso del Napoli, sì, a tutti i tifosi del Napoli, ma soprattutto ai calciatori del Napoli. Quest'anno noi massimo possiamo centrare un posto in Champions. E non ci dobbiamo illudere con l'anti-Juve e l'anti-Juve, perché si è visto anche ieri che il Napoli non può essere mai l'anti-Juve. E poi vorrei dire, anzi volevo una sua considerazione, Mazzarri ogni volta che succedono queste cose, questi risultati, rincorre sempre alla stessa cosa, che devono essere più concreti, devono essere più concreti, che sbagliano troppo, ma perché non le mette in pratica queste cose? Beh, ma che colpa ha Mazzarri se Cavani poi davanti a Dagliardi si mangia letteralmente il gol del 3-1. Detto questo, a me il Napoli è parsa una squadra stanca ieri contro il Bologna, stanca più nella testa che nel fisico, e io credo che la sosta non potrà che far bene alla squadra di Mazzarri, che è arrivata un po' col serbatoio vuoto, mi sembra, a questa sosta natalizia, e ha pagato questo. E poi credo che comunque abbia inciso a livello mentale anche l'attesa della sentenza, che ancora non arriva e che potrebbe togliere al Napoli 2 punti, ma soprattutto potrebbe togliere un giocatore importante come Cannavaro, che della squadra è il capitano, e quindi la sua possibile squalifica è certamente un evento che non può in qualche modo non interferire anche con il rendimento degli altri. A proposito di Napoli, bellissimo il gol di Koné, è il nostro top gol della settimana. And the Oscar goes to... Traversone di Garic, al volo, che gol! Koné ha fatto un gol strepitoso! Che meraviglia questo gol, bellissimo! Devo dire che non ero contento dell'ingresso di Koné, perché è vero che ha giocato in una posizione non troppo abituale per lui, ma volevo che si inserisse un po' di più. Ma guardi, Koné ce l'ha queste giocate qua, ce l'ha questi colpi, però purtroppo fino adesso gli era mancato proprio il guizzo finale. Si era sempre creato delle situazioni molto importanti e poi dopo la finalizzazione, per un motivo o per l'altro, non è mai stato tanto fortunato. E quindi quando uno ci prova significa che c'ha dentro qualcosina. E Pana è un ragazzo che ha delle qualità, che deve trovare più continuità, ma che ha delle qualità, e quindi sono molto chiaramente contento per lui, contento per noi. Tu sei bravo, no, ma che bravo. Sei bravo, no. Tu sei molto, molto bravo. Tu hai un dono, no? Te lo dico io, tu hai un dono. E non potevamo non celebrarlo il gol di Koné, straordinario anche Pioli, che ha detto di non essere soddisfatto della prestazione dell'uomo che ha segnato, io credo, il gol più bello fin qui del campionato in questa prima metà della stagione. Saluto Filippo Maria Ricci da Madrid, corrispondente della Gazzetta dello Sport. Ciao Filippo. Buon pomeriggio. Perché c'è il rischio che le luci, le insegne e tutto il resto non le spegniamo soltanto noi in Italia, ma in mezza Europa, a partire dalla Spagna, dove ieri credo il Barcellona abbia messo una pietra sopra la Liga. Sì, assolutamente. Atletico Madrid a meno 9, Real Madrid a meno 13. Sì, direi che sipario prima di Natale. Vediamo, può anche peggiorare la situazione. Ci sono due chiavi: uno, un Barcellona stratosferico, hanno fatto 46 punti su 48, sì, 15 vittorie, un pareggio e 0 sconfitte. Poi ci interroghiamo anche sul valore di Villanova e di Guardiola, perché è vero che questo è ancora il Barcellona di Guardiola, però è anche vero che non ha sofferto per nulla il passaggio maestro all'allievo. Io lo spiegherei, è facile da spiegare, io questo l'ho anche scritto. Villanova è stato il secondo di Guardiola in questi 4 anni assolutamente eccezionali, no? In cui hanno vinto tutto a ripetizione. I giocatori l'hanno visto, l'hanno conosciuto, tra l'altro tre giocatori molto importanti come Piqué, Fabregas e Messi lo hanno avuto come allenatore da ragazzini, ma ragazzini ha 16-17 anni, quindi già grandicelli, e vincevano tutto con lui, giocavano bene e soprattutto sapevano che era lui a fare la strategia per Guardiola, perché Guardiola ha tante qualità, però Villanova è uno che diciamo vede la partita meglio di lui ed era lui a gestire la squadra, tant'è vero che c'è l'episodio famoso della la partita col Getafe nel quale Villanova da casa, perché era operato per la rimozione del tumore alla gola, chiama la panchina e dà delle direttive, tipo Guardiola le segue. E insomma, i giocatori lo sapevano che non è che arrivava l'ultimo sfigato. Sì, non arrivava un Alessio o un Carrera qualsiasi per restare in Italia, con tutto il rispetto per Alessio e Carrera, che però hanno spiegato chiaramente in questi 4 mesi di essere eterodiretti da Conte. No, Villanova era un pezzo importante di quel Barcellona e quindi il salto non si è sentito. No, esatto, questa era, io avevo detto, parlato di due chiavi, quindi da una parte un Barcellona assolutamente stratosferico, forse gioca meno bene, no, del Barcellona di Guardiola, però ha una continuità mortale, assolutamente insostenibile per gli altri. La seconda chiave ovviamente è il calo del Madrid, che l'anno scorso in tutta la stagione aveva perso 5 partite, ne ha già perse 6, e in tutta la stagione scorsa aveva perso 14 punti in Liga, ne ha già persi 15, è un Madrid completamente diverso, per me squassato a livello psicologico dalla continua le continue polemiche montate da Mourinho. Non se ne avverte la necessità, l'ultima l'altro giorno qua al Bernabeu, quando hanno chiuso in una stanzetta un giornalista di Radio Marca, un giovane sì che aveva detto che secondo una sua fonte Silvino Lowe, il preparatore dei portieri, è considerato una spia da alcuni giocatori del Real Madrid, si sono messi in 6 a insultarlo, Mourinho presente, a minacciarlo e via dicendo. Io veramente mi chiedo che bisogno c'è, insomma, che alla fine è un giornalista di Radio Marca, non la vedo. Sì, che sta facendo il suo lavoro, bene o male, ma comunque sì, insomma, dovrebbe scivolare addosso a Mourinho, addosso a un ambiente esatto, come quello del Real Madrid, tra l'altro io credo abituato anche a navigare nelle tempeste, nelle polemiche. Quello che diceva Cabello. Esatto. Gli hanno detto di tutti i colori, cioè su As fecero la grande prima pagina, portatelo alla frontiera, cioè voglio dire, è normale, fa parte del mestiere, stai allenando il Real Madrid e le cose non vanno tanto bene, può arrivare qualche critica, puoi anche, ma non ti puoi mettere in 6, talmente c'era tutto lo staff tecnico più 2 dell'ufficio stampa, le persone che guidano l'ufficio stampa lì a minacciare un ragazzetto, insomma, vabbè, comunque sì, ho l'impressione che la storia di Mourinho al Real Madrid sia destinata a concludersi a giugno. Probabilmente non ci fosse di mezzo la decima, potrebbe anche concludersi prima, perché mi sembra che sia logoro proprio il rapporto con tutto l'ambiente. Poi ci racconterai che cosa è successo ieri al Bernabeu. Io ho letto qualcosa su Marca dove si è rimarcato che addirittura lo speaker non ha letto il nome di Mourinho prima della partita, sì, come tradizione. Nessuno ha capito se è stato un caso o un errore, perché può anche capitare, tu dai gli 11 e così, non era mai successo. E ti dimentichi. Invece, perché io non lo vedo nemmeno, cioè, mi ha stupito molto questa cosa, però perché non dovrebbero dire il nome di Mourinho? Vuol dire, Mourinho solo 2 settimane fa si è presentato lì alle 9:20 per farsi fischiare dalla gente, non vedo Mourinho, secondo me, non lo so, infatti nessun giornale, cioè, è stato riportato, ma con uno spazio molto relativo, perché non lo so, io non lo vedo come una mossa preordinata. Sì, è stato catalogato come curiosità, poi sì, capiremo se magari c'è dietro qualcosa, lo capiremo fra qualche settimana. Però mi sembra molto più grave il fatto, cioè, che i fischi finali e poi non c'è più divertenti invece i cori pro Mourinho del Camp Nou, quella è la cosa più divertente. Assolutamente. Cantavano Mourinho che da te, ovvero Mourinho resta, dice noi ti vogliamo bene, Mourinho resta, e l'ironia lì ovviamente ha maggior rilievo. Però dico, in generale il Madrid è stanco, secondo me, di Mourinho, cioè la stessa rosa, anche i giornalisti, sì, è stato consumato. È stato consumato, come del resto capita, sì, dopo 2 stagioni un po' ovunque, dove è stato José Mourinho, qui siamo alla terza, evidentemente era necessario fermarsi quest'estate, probabilmente sarebbe stato così se il Real Madrid fosse arrivato alla decima, invece evidentemente Florentino Perez e lo stesso Mourinho hanno deciso che valeva la pena riprovarci. con Filippo Maria Ricci, perché in Spagna hanno finito, ha vinto il Barcellona, tra l'altro oggi i giornali catalani, Filippo, a partire da Mundo Deportivo, così un po' come tutto sport in Italia, ci sono andati abbastanza pesanti. La Liga è questione soltanto per una squadra, campioni, un po' il titolo di tutto sport per la Juventus. C'è qualche problemino anche in Germania, dove il Bayern ha 9 punti di vantaggio sul Bayer Leverkusen e molti di più sul Borussia Dortmund, su tutti gli altri. Meno male che c'è la Premier, che c'è il derby di Manchester, anche se lo United è avanti di 6 lunghezze, e meno male soprattutto che c'è la Francia, dove sono in 3 in testa e dove in queste ore si discute dell'ultima follia di Ibrahimovic, che ha calpestato un giocatore del Lione. L'arbitro lo ha graziato, ma potrebbe ricevere una lunga squalifica con la prova TV. Filippo? Beh, se squalificano Ibra, il Paris Saint-Germain è nei guai, perché abbiamo visto quanto è determinante un giocatore tanto forte in un campionato, diciamo, tra virgolette, abbastanza ordinario. Sì, attenzione, anche il campionato olandese non è male, mi sembra ci siano 5 squadre in 3 punti. Però, insomma, ecco, dei grandi campionati, sì, il Bayern ha perso 2 punti questo weekend, però io non lo vedo battibile. No, forse in Inghilterra, secondo me, perché il Manchester United sta andando bene, però non lo vedo invece così sicuramente solido. E per il resto, no, è interessante la Francia, perché teoricamente era il campionato che doveva essere meno in discussione, no? Perché, sì, ecco, perché Paris Saint-Germain doveva partire, vincerlo, e invece è partito, poi si è fermato, poi è ripartito, poi si è fermato, adesso sembra aver trovato un minimo di continuità, però alla fine è lì in testa con Lione, con il Marsiglia, probabilmente ci resterà ancora un po' e poi si vedrà. Da Ibra, se lo squalificano, diciamo, è pericoloso per il Paris Saint-Germain. C'è una dipendenza, come c'è la dipendenza del Barcellona da Messi o anche del Madrid da Ronaldo, è molto molto evidente. Sì, non è solo questione di gol. No, insomma, è questione di fare una squadra quasi da solo, insomma, ma vedremo. Però sì, è un peccato in realtà che i campionati siano così già chiusi. E sì, oggi Villanova ha un bel dire, ieri sera diceva: ah, noi perderemo dei punti, soffriremo, sì, però tanto li perderanno anche gli altri, perché non considerando l'Atletico come rivale per il titolo, perché non è così, il rivale diretto è a 13 punti, insomma, non e possiamo dire che equivale una sentenza. Del resto l'ha detta, sì, anche Mourinho, è casi impossibile, sì, quasi impossibile, esatto. Resa, anche se oggi Florentino gli ha dato un po' una bacchettata, ha detto: noi dobbiamo credere sempre, però è chiaro che, sì, cosa deve dire anche il presidente. Insomma, è normale che dica così. E una curiosità: quando Bernd Schuster disse che era impossibile vincere la Liga, dopo un po' lo cacciarono via. Ma io... vediamo come va, perché tu dici della decima del Real Madrid, ma febbraio è molto lontano. Sì, e sì. Poi vediamo giovedì che sorteggio c'è. Non c'è dubbio. Se gli capita il Bayern Monaco? Se gli capita un sorteggio duro, o Mourinho ritorna in possesso dell'ambiente, delle chiavi per entrare non solo nello spogliatoio, ma anche nel cuore della gente di Madrid, oppure ho l'impressione che febbraio sia lontano. Non hai torto. Grazie Filippo Maria Ricci. A voi un abbraccio. Grazie Filippo, un abbraccio. C'è Matteo da Milano che ha chiamato l'800 24 00 24. Matteo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Prego. Salve. Ascolti, io la chiamavo per fare un riferimento a una chiamata di mezz'ora fa di Guido da Udine. Si ricorda che ha fatto riferimento con Genta, che sì, sull'Inter. Io volevo dire una mia impressione. Prego. Salutando anche il signor Guido. Secondo me il signor Genta, so che non è lì per difendersi, ma dovrebbe avere una direzione della trasmissione un po' meno anti-interista. Ma glielo diremo, guarda. Più che ricevere anche i Twitter dove interisti si lamentano con lui, non è che sono tutti gli interisti delle vittime, è che lui, secondo me, è palesemente anti-interista. Non so che squadra tifi, ma insomma, ci vorrebbe un pochino più di imparzialità, a mio avviso. Va bene, quindi Genta è anti-interista, glielo recapiteremo, Matteo. Grazie. A proposito di Inter, lo sentiamo Moratti allora sulla sfortuna, gli arbitri, gli episodi. Moratti. Certamente un po' di destino contrario c'è stato, insomma, e gli episodi che non sono andati bene, però la squadra non mi è dispiaciuta per niente, specialmente primo tempo ha tenuto e il secondo tempo ha fatto molto bene, quindi non cambia proprio un giudizio positivo sulla squadra, e dispiace perché invece erano punti importanti. La Juventus ora è a più 7. E poi vedremo la prossima e le altre. È chiaro che la Juventus aveva un compito più facile, ma comunque ha giocato molto bene da quello che mi sembra aver capito, e quindi fa il suo campionato e noi cercheremo di fare il nostro. C'è qualche regalino magari per gennaio? No, non è per Natale, quindi poi vedremo a gennaio. Pensavo metteste più in evidenza la schifezza che ha fatto Ibra. Dovrebbe essere fermato per un anno e alla prossima volta che la combina così a vita. Non sono tollerabili cose del genere. Beh, andatevelo a vedere il fallo. In Francia sono sotto shock e io credo, non un anno, ma credo che qualche giornata Ibrahimovic l'avrà sicuramente disqualifica con la prova TV. Andiamo in acqua invece, andiamo in piscina. Buon pomeriggio a Max Rosolino. Buon pomeriggio, ciao ragazzi. Ciao Max, buon pomeriggio, perché si sono chiusi i mondiali in vasca corta di Istanbul. Io leggo dal medagliere: Italia 2 ori, 2 argenti, 0 bronzi, e mi sembra una sensazione di soddisfazione per quella che è stata questa spedizione, che arriva a pochi mesi da un'Olimpiade che aveva segnato un fallimento per il nuoto italiano. Ma sai, sicuramente allora quella dei giochi olimpici deve essere una, si spesso dicono sempre, da dimenticare. Invece secondo me uno si deve ricordare anche le cose negative per lavorare per un futuro. Hanno 4 anni per fare quello che quest'anno assolutamente non è stato fatto. 2 settimane fa gli europei di vasca corta, adesso in Turchia i mondiali di vasca corta, è una buona ripresa, indubbiamente una buona ripresa, indipendentemente dalle punti che in questo caso sono stato l'ara bianchi nei 100 delfino donne e Scozia nei 100 rano uomini. Tutta la squadra bene o male è riuscita a portare a casa dei risultati anche a livello individuale, proprio a livello cronometrico, positivi. Va bene, non c'è stato il blackout di nessuno. Sì, questi sono ragazzi, tu hai citato Scozzoli, poi c'è stato anche Paltrinieri, ieri argento nei 1500, ma in questo caso non si tratta certamente di una sorpresa. Sono ragazzi che tra l'altro sono anche di prospettiva per il quadriennio che si apre, che ci deve portare poi a Rio, e probabilmente esiste una base su cui costruire. Sicuramente sì, hai detto bene, esiste una base sulla quale costruire. Ovviamente stiamo parlando di persone, sai, Paltrinieri l'anno scorso faceva ben sperare, quest'anno arriva con grandi conferme e i crono fanno ben sperare. Ovviamente Scozzoli purtroppo è l'unica gara che ha sbagliato, è stata quella veramente dei giochi di... Sì, davvero un peccato, davvero un peccato, perché era il suo anno. Ma proprio un peccato a livello personale. La cosa bella che vediamo in queste ultime settimane è che un pochettino, assolutamente non Scozzoli, non era di seconda fascia, però Scozzoli ovviamente, la risonanza che fa Scozzoli rispetto a quello che faceva la Pellegrini era di un gradino leggermente più basso. Invece adesso è stata la loro forza, è stata proprio questa, che vince Ilaria Bianchi, vince Scozzoli, Paltrinieri si conferma, vuol dire che il nuoto italiano ricresce un pochettino, come 10 anni fa succedeva che stava Brembilla, Fioravanti e Rosolino. Adesso abbiamo i così, tra virgolette, gli outsider che diventano protagonisti a tutti gli effetti. Sì. Pellegrini, ovviamente, Federica Pellegrini quest'anno ha ripreso in maniera più soft, come spesso ci ha abituato a fare nella prima parte della stagione, e a parte questi ragazzi anche la 4% sia libero si è ripresa. Luca Dotto ha incominciato a fare quello che può fare, può anche ripetere in vasca lunga, e in prospettiva forse di Barcellona, perciò parliamo di mondiali veri di vasca da 50, la squadra secondo me questa volta può diventare protagonista e tornare a essere tra le migliori, non soltanto in Europa come è stato, ma anche nel mondo. Sì, questo è importante. Si è anche respirato un clima diverso, mi sembra, anche la medaglia della staffetta che insieme ai quinti posti di Federica Pellegrini a Londra era stato un po' il simbolo del flop, della difficoltà del nuoto, c'erano state le polemiche, le accuse. Mi sembra che si sia respirato un clima diverso. Ma è importante, sai, quando si fa pulizia è importante aprire anche la finestra, no? Altrimenti, voglio dire, non esce l'odore cattivo, comunque quello che serve a dare questa ripulita. Sai, al di là di essere non andati benissimo, e questo è un peccato principalmente per i ragazzi e per le persone che seguono, c'erano state tante polemiche, diciamo, non un gioco di squadra. Io ci tengo a precisare che nel nuoto non credo che ci sia bisogno di avere per forza il capitano di riferimento o per forza, voglio dire, il CT che deve assolutamente caricare la squadra, però ognuno deve fare il proprio lavoro, e purtroppo, sai, qualche parola di troppo aveva fatto la differenza nel momento già di difficoltà. E a Londra non tutto era andato a posto. Grazie a Max Rosolino. Grazie a voi ragazzi. Ciao. Grazie a Max Rosolino, noi ci fermiamo qui. Io ringrazio Giorgio Piantani della redazione, Roby Scaltritti alla parte tecnica. Un saluto da Giovanni Capuano, l'appuntamento con tutti i convocati domani a partire dalle ore 14. Merry Christmas to all Manchester City fans and thank you for your support.